I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nella vita i tempi contano e contano soprattutto quando si parla di banche e di banche italiane. Intendiamoci, bene ha fatto ieri il Presidente del Consiglio nel tranquillizzare l'opinione pubblica e rassicurare che i correntisti bancari in Italia non avranno problemi. Lo ha fatto dopo il vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno preso parte anche il ministro dell'economia Padoan, e i vertici della Cassa Depositi e Prestiti, ossia il soggetto che da più parti viene indicato come il possibile strumento per risolvere il tema delle sofferenze bancarie. Il Premier ha avuto anche ragione nel ricordare che il tema bancario non riguarda, e della solidità bancaria, non riguarda solo e soprattutto le banche italiane, ma anche alcune banche europee. Tra le righe si leggeva chiaramente il nome di Deutsche Bank. E bene ha fatto anche il commissario europeo Dombrovskis a assicurare, sempre ieri, che la Commissione europea è pronta a intervenire sulle banche e sulle banche italiane. Sì alle ricapitalizzazioni se verranno soddisfatte tutte le condizioni. Tutto bene quindi? No, per nulla, perché se queste dichiarazioni sono rassicuranti, quello che ancora non è certo è appunto il tempismo con cui si muoveranno le autorità nazionali e lo schema che verrà adottato. Si sceglierà di intervenire solo sulle situazioni più critiche, Monte dei Paschi in testa, o si opterà per un sistema che riguarderà tutto il mondo bancario italiano? Non è una domanda da poco quella che riguarda i tempi di applicazione delle eventuali soluzioni, perché per chiudere e dirla con una battuta, mentre i medici discutono, il paziente rischia di morire. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Aumentano le segnalazioni alle autorità sulle operazioni sospette di riciclaggio. È la conclusione principale del rapporto annuale 2015 dell'Unità di Informazione Finanziaria, UIF, della Banca d'Italia. L'UIF lavora in Italia proprio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette sui flussi finanziari trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Sono state oltre 82.000 le segnalazioni lo scorso anno, ben 10.000 in più dell'anno precedente, e nel primo semestre del 2016 siamo già oltre quota 50.000. Nel complesso sono state però solo 300 le denunce relative a transazioni riconducibili ad attività legate direttamente al terrorismo. È un bene? È un male? È un bene perché significa che chi deve segnalare lo fa molto più di prima e aumenta quindi la consapevolezza del ruolo e dell'importanza della denuncia come presidio di legalità nelle transazioni economiche. È un male perché evidentemente l'Italia si configura ancora come un'ampia zona grigia di soggetti e ambiti di attività che non si fanno problemi a interagire con aree controllate dalla criminalità organizzata. Rispetto al totale sono ancora poche poi le segnalazioni fatte dai professionisti, che sono comunque cresciute da 2.500 fino a quasi 6.000 e sono per lo più legate alle operazioni di rientro dei capitali previste con la voluntary disclosure. Sono aumentate del 60% invece le segnalazioni legate al gioco e alle scommesse o ai negozi di compro oro. Nel complesso, l'ufficio della Banca d'Italia ha trasmesso ai magistrati ben 85.000 dossier. C'è una nota dolente e grave, segnalata sempre dall'UIF nella relazione annuale, la scarsa collaborazione da parte degli uffici della pubblica amministrazione. Sono state 21, sì, avete capito bene, 21, solo 21 le segnalazioni, e finora quest'anno ne sono arrivate 7. Come al solito, nella pubblica amministrazione l'atteggiamento prevalente è lo scaricabarile burocratico, anche se si tratta di mafia e di terrorismo. Diciamocelo francamente, non è un bell'esempio, anzi, c'è proprio da vergognarsi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.